Anna dai capelli rossi, volume quinto, La baia della felicità di Lucy Maud Montgomery. Capitolo primo. Nella soffitta di Green Gables. Per fortuna ho chiuso con la geometria. Non la studierò e non la insegnerò più, disse Anna Shirley, come per vendicarsi. Cacciò il volume un po' malconcio di Euclide in un grosso baule pieno di libri. Sbatté trionfalmente il coperchio e vi si mise a sedere, guardando con occhi grigi come un cielo mattutino l'amica Diana Wright all'altro capo della soffitta di Green Gables. La soffitta era ombrosa, affascinante e accogliente come tutte le degne di questo nome. Dalla finestra aperta presso cui sedeva Anna entrava a fiotti l'aria pura, profumata e calda di sole del pomeriggio estivo. Fuori le fronde dei pioppi stormivano e si agitavano al vento. Ancora oltre c'erano i boschi in cui si snodava il magico sentiero del Lover's Lane, il cammino degli innamorati, e il vecchio frutteto con i meli ancora generosi di rosei raccolti. In alto, un imponente bastione di nuvole candide si ergeva a sud, nel cielo azzurro. Dall'altra finestra si intravedeva lontano un mare azzurro spumeggiante di bianco. Era il bel golfo di San Lorenzo, in cui, come una pietra preziosa, è incastonata l'isola dal musicale nome indiano, Abbey White, sostituito da tempo da quello più prosaico di isola del principe Edoardo. Diana Wright, nei 3 anni trascorsi dall'ultima volta in cui l'aveva vista, si era un po' appesantita, ma gli occhi erano sempre neri e luminosi, le guance sempre rosee e le fossette sempre incantevoli, come nei lontani giorni in cui aveva stretto un patto di eterna amicizia con Anna Shirley nel giardino di Orchard Slope. Teneva tra le braccia una creatura addormentata dai riccioli neri, che allietava da 2 anni il mondo di Avonlea e si fregiava del nome di Small Anna Cordelia. La gente di Avonlea sapeva naturalmente perché Diana l'aveva chiamata Anna, ma era perplessa riguardo a Cordelia. Non c'era mai stata una Cordelia nella famiglia dei Wright o in quella dei Barry. La signora Harmon Andrews diceva che Diana aveva trovato il nome in qualche romanzetto e si stupiva che Fred non glielo avesse impedito. Ma Diana e Anna sorridevano di tutto questo. Loro sapevano perché la piccola Anna Cordelia si chiamava così. «Hai sempre odiato la geometria», disse Diana con un sorriso, riandando con la mente al passato. «E poi sarai più che contenta di non dover insegnare». «Oh, mi è sempre piaciuto insegnare». A parte la geometria. Gli ultimi 3 anni a Summerside sono stati piacevolissimi. Quando sono tornata a casa, la signora Harmon Andrews mi ha detto di non aspettarmi dalla vita di moglie molto di più che da quello di insegnante. Evidentemente la signora Harmon condivide l'opinione di Amleto che è meglio sopportare i mali noti piuttosto che ricercarne altri ignoti. Il riso di Anna, allegro e irresistibile come un tempo, ma con una nuova nota di dolcezza e maturità, risuonò nella soffitta. Marilla era in cucina, intenta alla preparazione della marmellata di susine, e sorrise nell'udirlo. Poi sospirò, pensando che ben di rado in futuro quel riso si sarebbe udito di nuovo a Green Gables. Una delle gioie più grandi della vita di Marilla era stato il fidanzamento di Anna con Gilbert Blythe, ma la felicità è sempre accompagnata da un'ombra di dolore. Durante i 3 anni trascorsi a Summerside, Anna era spesso tornata a casa per le vacanze e il fine settimana, ma d'ora in poi si poteva sperare al massimo in 2 visite l'anno. Non lasciarti impressionare da quello che dice la signora Harmon, disse Diana, forte di un'esperienza matrimoniale di 4 anni. La vita della donna sposata ha i suoi alti e bassi, naturalmente. Non devi aspettarti che tutto vada sempre liscio, ma posso assicurarti, Anna, che è una vita felice. Se sei sposata con l'uomo giusto. Anna trattenne un sorriso. Trovava un po' ridicole le arie da donna esperta di Diana. Finirò per averle anch'io dopo 4 anni di matrimonio, pensò. Ma il mio senso dell'umorismo forse mi salverà. Avete deciso dove andrete a stare? Chiese Diana, stringendo la piccola Anna Cordelia con l'inimitabile gesto materno, capace di dare al cuore di Anna Pieno di dolci sogni e speranze inespresse, un brivido a metà tra il puro piacere e una sorta di etereo dolore. Sì, volevo parlarti proprio di questo quando ti ho telefonato di venire oggi. A proposito, non riesco a capacitarmi che ci sia davvero il telefono ad Avonlea. Sembra una modernità assurda per questo posto all'antica. Beh, dobbiamo ringraziare la società per il progresso di Avonlea, disse Diana. Non ci avrebbero mai dato la linea se non avessero preso loro in mano la faccenda, occupandosene fino in fondo. Hanno tentato in tutti i modi di scoraggiarli. Loro però non hanno ceduto. Fondando quella società hai fatto uno splendido regalo ad Avonlea, Anna. Come ci divertivamo durante le sedute di allora. Com'è possibile dimenticare il circolo ricreativo dipinto di azzurro e l'idea di Judson Parker di affittare la sua staccionata alla pubblicità di un medicinale? Non credo di essere tanto grata alla società per il progresso di Avonlea riguardo al telefono, disse Anna. Oh, so che è comodissimo, anche di più del nostro vecchio sistema di scambiarci messaggi con la luce di candela. E come dice la signora Rachel, Avonlea deve stare al passo con la processione. Questo è quanto. Ma mi sembra che Avonlea non sia più la stessa con quelle che il signor Harrison, quando in vena di spiritosaggini, chiama scomodità moderne. Vorrei che restasse sempre come era un tempo. È un desiderio sciocco, sentimentale, lo so. È impossibile. Perciò diventerò subito saggia, pratica e accomodante. Il telefono, secondo la missione del signor Harrison, è una gran bella cosa. Anche se sai che una mezza dozzina di curiosi sono in ascolto lungo la linea. È questo il guaio, disse Diana con un sospiro. È seccante sentire i ricevitori scattare quando si telefona a qualcuno. Si dice in giro che la signora Harmon Andrews abbia insistito per avere il telefono in cucina, per ascoltare le chiamate di tutti e intanto tenere d'occhio i fornelli. Oggi, quando mi hai chiamata, ho riconosciuto il suono caratteristico della pendola dei Pai. Dovevano esserci Josie o Gertie in ascolto. Ah, è per questo che hai detto: avete una pendola nuova a Green Gables, vero? Non capivo a cosa ti riferissi. Ho sentito uno scatto secco subito dopo la tua frase. Sarà stato il ricevitore dei Pai che veniva attaccato con malagrazia. Beh, non far caso ai Pai. Come dice la signora Rachel, Pai sono sempre stati e Pai sempre saranno nei secoli dei secoli. Amen. Voglio parlare di cose più piacevoli. È tutto sistemato per quanto riguarda la casa nuova. Oh, Anna, dov'è? Spero tanto che sia vicina. Invece no, ecco l'inconveniente. Gilbert si stabilirà a Four Winds Harbor, a circa 100 chilometri da qui. 100? Per me è come se fossero 1.000. Disse Diana con un sospiro. Ora, quando mi allontano da casa, posso andare al massimo fino a Charlottetown. Ma a Four Winds dovrai venire. È la baia più bella dell'isola. C'è un paesino che si chiama Glen St. Mary, dove da 50 anni David Blythe fa il dottore. Come sai, è prozio di Gilbert. Sta per andare in pensione e Gilbert rileverà il suo studio. Però il dottor Blythe non lascerà la sua casa e noi dovremo cercarci un'abitazione. Non so ancora qual è o dov'è nella realtà, ma nella fantasia ho bell'e pronta una piccola casa dei sogni, il mio meraviglioso castello in aria. Dove andrai in viaggio di nozze? Chiese Diana. Da nessuna parte. Oh, non fare quella faccia, mia cara Diana, sembri la signora Harmon Andrews. Senz'altro lei commenterà con degnazione che chi non può permettersi il viaggio di nozze è meglio che non lo faccia, e poi mi ricorderà che Jane è andata in Europa. La mia luna di miele io invece voglio trascorrerla a Four Winds nella casa dei miei sogni. E hai deciso di fare a meno delle damigelle? Oh, non saprei chi scegliere. Tu, Phil, Priscilla e Jane mi avete battuto sul tempo quanto a nozze. E Stella insegna a Vancouver. Non ho altre anime gemelle. E mai vorrei una damigella che non lo fosse. Ma metterai il velo, non è vero? Chiese Diana preoccupata. Certo che sì, altrimenti non mi sembrerebbe nemmeno di sposarmi. Ricordo di aver detto a Matthew quella sera che mi portò a Green Gables che probabilmente non mi sarei mai sposata perché ero tanto bruttina e nessuno mi avrebbe mai voluta, tranne forse un missionario all'estero. Allora pensavo che i missionari all'estero non potessero permettersi di essere troppo esigenti sull'aspetto esteriore se volevano una ragazza pronta a rischiare la vita tra i cannibali. Avresti dovuto vedere che missionario ha sposato Priscilla. Era bello e imperscrutabile come quelle figure immaginarie che sognavamo di sposare noi. Diana era l'uomo più elegante che abbia mai conosciuto e andava in visibilio per la bellezza bionda ed eterea di Priscilla. Però in Giappone non ci sono cannibali. Comunque il tuo abito da sposa è un sogno, disse Diana con un sospiro estatico. Sembrerai una regina. Sei così alta e magra. E come fai a mantenere la linea, Anna? Io divento sempre più grassa e tra un po' non avrò più vita. Essere magre o grasse è un destino, disse Anna. Ad ogni modo, la signora Harmon Andrews non potrà mai dirti quello che ha detto a me quando sono tornata a casa da Summerside. Beh, Anna, sei pelle e ossa come sempre. Sarà romantico essere snelle, ma essere pelle e ossa è tutt'altra cosa. La signora Harmon non fa che parlare del tuo corredo. Ammette che è bello come quello di Jane, ma poi dice che Jane ha sposato un milionario, mentre tu sposi un dottorino povero senza un centesimo. Anna rise. È vero. Sono abiti graziosi. Mi piacciono le cose belle. Ricordo ancora il primo vestitino elegante, quello splendore marrone che mi regalò Matthew per la recita scolastica. Prima di allora avevo avuto solo cose brutte. Quella sera mi parve di entrare in un mondo nuovo. Fu la sera in cui Gilbert recitò Navigando sul Reno e ti fissò dicendo: c'è un'altra e non è una sorella. Tu eri furibonda perché si era messo nel taschino la tua rosellina di stoffa. Chi l'avrebbe mai detto che avresti sposato proprio lui? Oh, beh, anche in questo caso è questione di destino, disse Anna ridendo mentre scendevano da basso. Capitolo 2. La casa dei sogni. L'aria di Green Gables era carica di un'euforica animazione mai riscontrata in passato. Persino Marilla non poteva fare a meno di dimostrare la propria eccitazione, e già questo era straordinario. Non c'è mai stato un matrimonio qui in casa, disse, quasi a volersi giustificare con la signora Rachel Lind. Da bambina ho sentito dire dal pastore di allora che una casa non è una vera casa finché non riceve la consacrazione di una nascita, di un matrimonio e di una morte. I nostri morti qui li abbiamo avuti, mio padre, mia madre e Matthew. E c'è stata anche una nascita. Tanti anni fa, appena stabiliti qui, per qualche tempo tenemmo a pensione un salariato e sua moglie diede alla luce un figlio. Ma non c'è mai stato un matrimonio prima d'ora. Mi sembra così strano che Anna si sposi. A me pare sempre la bambinetta che Matthew portò a casa 14 anni fa. Non riesco a rendermi conto che è adulta ormai. Non dimenticherò mai ciò che provai quando vidi che Matthew aveva portato a casa una bambina. Mi chiedo che ne sarà stato del ragazzo che ci sarebbe toccato se non ci fosse stato un errore. Chissà quale destino ha avuto. Beh, è stato un errore benedetto, disse la signora Rachel Lind. Anche se, a dire il vero, non l'ho pensato sempre, e specialmente quella sera che venni a vedere Anna e lei fece una gran scenata. Sono cambiate molte cose, questo è certo. La signora Rachel sospirò, ma si rianimò subito. Quando c'era un matrimonio in vista, la signora Rachel era pronta a dimenticare il passato e a seppellirlo con tutti i suoi morti. Darò ad Anna due dei miei copriletto a trama di cotone, continuò, uno a righe color tabacco e un altro verde mela. Mi ha detto che stanno per tornare di moda. Beh, moda o non moda, secondo me non c'è niente di più adatto al letto di una camera per ospiti di un bel copriletto verde mela. Questo è poco ma sicuro. Devo occuparmi di rinfrescarli. Li ho tenuti chiusi in fodere di cotone dopo che è morto Thomas e avranno preso un brutto colore. Ma c'è ancora un mese di tempo e per ravvivare le tinte non c'è niente di meglio della rugiada. Un mese soltanto. Marilla sospirò e poi disse con orgoglio: darò ad Anna mezza dozzina dei tappetini intrecciati che sono in soffitta. Non avrei mai creduto che li volesse. Sono antiquati e ora, a quanto sembra, la gente vuole quelli moderni fatti con l'uncinetto, ma me li ha chiesti lei. Ha detto che per i pavimenti di casa sua preferisce quelli. Belli lo sono davvero, li ho fatti con stracci di prima qualità, intrecciati insieme. Mi è servito a passare il tempo in questi ultimi inverni. e le farò tanta marmellata di susine da riempirle la dispensa per un anno. È davvero strano. Quei pruni non hanno fatto un fiore per 3 anni e già pensavo di tagliarli. Poi questa primavera era una nuvola di fiori bianchi e hanno dato tante prugne quante mai ne avevamo viste qui a Green Gables. Beh, grazie al cielo, Anna e Gilbert si sposeranno dopo tutto. Certo che ho pregato tanto, disse la signora Rachel, nel tono di chi è beatamente convinto dell'efficacia delle proprie preghiere. È stato un gran sollievo scoprire che non aveva davvero intenzione di scegliere il ragazzo di Kingsport. Era ricco, questo è vero, e Gilbert è povero, almeno per ora, però è dell'isola. È Gilbert Blythe, disse Marilla soddisfatta. Marilla si sarebbe fatta tagliare la testa piuttosto di confessare il pensiero che da anni si annidava nella sua mente quando guardava Gilbert, il pensiero che se non fosse stato per il proprio ostinato orgoglio di tanto tempo prima, quel ragazzo avrebbe potuto essere suo figlio. Marilla sentiva che in certo qual modo le nozze con Anna avrebbero rimediato a quell'antico errore. La credine di allora non era del tutto venuta per nuocere. Anna poi era tanto felice d'aver quasi paura. Gli dèi, secondo le antiche superstizioni, si indispettiscono nel vedere la felicità dei mortali, e comunque certo che si indispettiscono alcuni esseri umani. Due esseri di tal fatta si presentarono ad Anna nell'ora violetta del crepuscolo e si apprestarono a fare ciò che era in loro potere per sgonfiare la bolla iridata della sua gioia. Se pensava di fare un buon affare sposando il giovane dottor Blythe, o se si illudeva che fosse ancora infatuato di lei come era da ragazzino, era loro dovere aprirle gli occhi. Eppure, queste due signore non erano nemiche di Anna, al contrario, le volevano bene e l'avrebbero difesa ad ogni costo contro attacchi di estranei. La natura umana non è obbligata ad essere coerente. La signora Inglis, nata Jane Andrews, per citare il Daily Enterprise, venne con la madre e la signora Jasper Bell. Ma in Jane il latte dell'umana bontà non era ancora stato inacidito da anni di bisticci matrimoniali. La sorte era stata benigna con lei, per dirla come la signora Rachel Lynde. Nonostante avesse sposato un milionario, il suo era un matrimonio felice. La ricchezza non l'aveva guastata, era ancora la placida, disponibile rosea Jane del vecchio quartetto. Partecipava alla felicità dell'amica e si interessava ai minimi dettagli del corredo di Anna, quasi fosse alla pari del suo sfarzo nuziale di sete e gioielli. Jane non brillava per intelligenza e probabilmente non aveva mai detto nulla che fosse degno di nota, però mai aveva pronunciato una parola che potesse offendere la sensibilità altrui. Può darsi che non sia una gran virtù, ma è tuttavia rara e invidiabile. Così Gilbert non ha cambiato idea dopo tutto, disse la signora Harmon Andrews in tono volutamente sorpreso. Beh, di solito i Blythe mantengono la parola data, costi quel che costi. Vediamo, hai 25 anni, vero Anna? Quando ero giovane io, a 25 anni incominciavano ad essere una discreta età. Ma tu sei giovanile, come tutte le persone con i capelli rossi. I capelli rossi sono l'ultima moda ora, disse Anna, sforzandosi di sorridere, ma con una certa freddezza nella voce. Con gli anni aveva acquisito un senso dell'umorismo che le era di aiuto in molte situazioni difficili, ma mai e poi mai poteva restare indifferente a un'allusione sul colore dei suoi capelli. Già, già, ammise la signora Harmon. Certo che la moda tira fuori delle gran stramberie. Beh, Anna, hai delle cose molto carine e adatte al tuo stato sociale, vero Jane? Spero che tu sia felice e naturalmente te lo auguro di cuore. Spesso i fidanzamenti lunghi rovinano i matrimoni, ma certo nel tuo caso non c'era scelta. Gilbert ha l'aria troppo giovane per essere un dottore. Ho paura che la gente non sarà disposta a fidarsi di lui, disse in tono tetro la signora Jasper Bell. Poi serrò la bocca, come se con quell'osservazione si fosse tolta un peso dalla coscienza. Apparteneva al genere di donna che sfoggia una striminzita piuma nera sul cappello e ciocche disordinate di capelli neri sul collo. La soddisfazione superficiale di Anna per il corredo fu temporaneamente offuscata. Ma Ma ci voleva altro per intaccare la sua felicità interiore. Le frecciatine delle brave signore Bell e Andrews furono presto dimenticate durante la successiva passeggiata con Gilbert fino alle betulle del ruscello. Erano alberelli quando Anne era arrivata a Green Gables e ora erano divenute alte colonne d'avorio nel magico palazzo del crepuscolo stellato. Al riparo dei loro rami, Anne e Gilbert parlarono con il linguaggio degli innamorati della loro casa nuova e della loro nuova vita. Ho trovato un nido per noi, Anna. Oh, dove? Non proprio in paese, spero. Non mi piacerebbe affatto. No, non c'erano case disponibili in paese. È una casetta bianca sulla riva della baia, a metà strada tra Glen St. Mary e il promontorio di Four Winds. È un po' fuori mano, ma con il telefono non sarà un problema. La posizione è bellissima. Guarda a ponente sulla grande baia azzurra. Non molto lontano ci sono le dune di sabbia. I venti di mare le investono e la spuma del mare le bagna. Ma la casa, Gilbert, la nostra prima casa, com'è? Non molto grande, ma abbastanza grande per noi. C'è uno spazioso soggiorno con il camino a piano terra, poi una sala da pranzo affacciata sulla baia e uno stanzino che mi servirà da studio. Ha circa 60 anni. È la casa più vecchia di Four Winds, ma è sempre stata tenuta in ordine e rimessa a nuovo una quindicina di anni fa, a tetto, intonaco e pavimenti. È comunque una costruzione solida. Ho sentito dire che c'è una storia romantica legata alla costruzione di quella casa, ma l'uomo che me l'ha affittata non ne sapeva niente. Ha detto che ormai è rimasto solo il capitano Jim a raccontare le vecchie cose del paese. E chi è il capitano Jim? Il guardiano del faro sul promontorio di Four Winds? Adorerai quel faro, Anna. È a fuoco girevole e all'imbrunire brilla come una splendida stella. Si vede dalle finestre del soggiorno e dalla porta d'ingresso. E chi è il padrone della casa? Beh, ora appartiene alla chiesa presbiteriana di Glen St. Mary e l'ho presa in affitto dai curatori, ma fino a non molto tempo fa apparteneva a un'anziana signorina, una certa Elizabeth Russell. È morta la primavera scorsa e poiché non aveva parenti prossimi ha lasciato i suoi beni alla chiesa di Glen St. Mary. Ci sono ancora i suoi mobili in casa e li ho comprati quasi tutti, praticamente per niente. Sono tanto antiquati che i curatori disperavano di riuscire a venderli. Probabilmente la gente di Glen St. Mary preferisce broccati sontuosi e credenze con specchi e intagli, ma i mobili della signorina Russell sono solidi. Certamente ti piaceranno, Anna. Già, va bene, disse Anna, annuendo ma senza sbilanciarsi. Però, Gilbert, non si può vivere di soli mobili. Non hai ancora fatto cenno a una cosa importantissima. Ci sono o non ci sono alberi intorno a questa casa? Un mucchio, mia bella driade. C'è un discreto boschetto di abeti sul retro, due filari di pioppi lungo il viale e un cerchio di betulle bianche attorno a un delizioso giardino. Il portone d'ingresso dà sul giardino, ma c'è un'altra entrata, un cancelletto tra due abeti. I cardini sono su un tronco e i saliscendi sull'altro. I rami formano un arco in alto. Oh, sono tanto contenta. Non potrei vivere in un posto senza alberi. La mia linfa vitale si inaridirebbe. Beh, allora è inutile chiederti se c'è un ruscello vicino. Sarebbe pretendere troppo. Ma il ruscello c'è, davvero? E costeggia un angolo del giardino. Allora, disse Anna con un lungo sospiro di suprema soddisfazione, la casa che hai trovato è senza ombra di dubbio la casa dei miei sogni.